Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento, secondo argomento di questa settimana da affrontare insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ci torniamo sopra perché la notizia è proprio dei giorni pasquali, forse non l'abbiamo ancora digerita e dobbiamo tornarci sopra. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Il dato è quello diffuso da Coldiretti: più di 1 milione di famiglie in Italia senza redditi da lavoro, un'impennata più 18% rispetto all'anno precedente. Il confronto ovviamente è tra 2012 e 2013. Non c'è fine al peggio, Carlo? Non c'è fine al peggio, Mirko, e soprattutto non c'è ancora quei lumi di speranza che ci può far sperare che questo trend si possa invertire, perché certamente i dati che ogni giorno l'Istat snocciolano per quanto riguarda la disoccupazione e per quanto riguarda anche le famiglie in difficoltà che sempre più faticano ad arrivare a fine mese aumentano costantemente, tant'è che, come hai detto, quest'anno rispetto all'anno scorso, per effetto di un'indagine diffusa da Coldiretti, è aumentato del 18% le famiglie che sono senza reddito nell'ultimo anno, come detto, ma soprattutto sono 4 milioni gli italiani che chiedono aiuto per riuscire proprio a mangiare, quindi qua siamo arrivati proprio alla sopravvivenza. Famiglie che sono con figli, senza figli, anche qui magari anche monoparentali, cioè famiglie composte da una sola persona, pensiamo ad anziani soli oppure a single che appunto costituiscono almeno per le statistiche nucleo familiare. Quindi la situazione è molto diversificata e tocca un po' tutti, mi pare. Sì, tocca un po' tutti, però questa volta rispetto a precedenti analisi che sono state fatte, quello che si evidenzia come a soffrire, a parte il mezzogiorno, che ormai è un dato, diciamo, di cui tutti siamo abituati ad analizzare, questa volta è il nord che segue il mezzogiorno e non è più il centro, tant'è che a soffrire, se è al sud parliamo di circa 598.000 famiglie, al nord ce ne sono 343.000, mentre il centro 189.000. Quindi certamente questa, a mio avviso, è un'importante novità che fa capire come il nord-est, che prima fino ad oggi era un po' la locomotiva, il traino di quella che era l'economia del nostro paese, oggi sostanzialmente sta accusando grossi contraccolpi e in termini anche di famiglie e di persone che insomma non riescono più a mangiare e stanno aumentando giorno dopo giorno. Non riesco a cogliere dove sta il nesso tra questi dati e le 50.000 e più persone che nei giorni scorsi sono andati al nuovo centro commerciale a Marghera. Noi come Adico siamo convinti che queste persone normalmente si spostano perché ricercano sempre delle promozioni, soprattutto quando si inaugurano questi nuovi centri commerciali. Certamente è un flusso di persone che fa ragionare su quelle che sono state anche le mete predilette in un periodo come quello della Pasqua, dove normalmente si prediligeva la gita fuori porta. Certamente il meteo, la pioggia, in particolar modo il giorno di Pasquetta, hanno incentivato questa cosa, però devo dire che è alquanto mortificante che 50.000 persone si sono dirottati verso Pasquetta nei centri commerciali rispetto a quelle che magari hanno le occasioni per andare a trovare parenti, amici o stare assieme, come fino a qualche anno fa un po' tutti, presumo, eravamo abituati. Sì, magari sono stati assieme fra di loro, ma appunto al centro commerciale, e 50.000 sono in questo di Marghera, quindi non oso pensare, almeno nel lunedì di Pasqua, contando anche le aperture che ci sono state anche nel giorno di Pasqua. Torniamo a questi dati, in parte sono di Coldiretti, in parte come dell'Istat, dicevi tu 4 milioni di persone, anche di più, 4.068.250 esattamente, che hanno chiesto aiuto per mangiare. Quindi, come dicevi, siamo arrivati per queste persone almeno ai livelli di sussistenza. Ah certo, quando arriviamo snocciolare dati riferiti a persone che non arrivano più praticamente a cibarsi o a sfamarsi, siamo arrivati veramente a raschiare il fondo del barile. Non oso pensare queste persone se avrebbero necessità di doversi curare o fare prevenzione medica, cosa potrebbe capitare, o come questi numeri potrebbero ancora più aumentare, perché ricordiamo che oggi tra le strategie che le famiglie normalmente adottano per arrivare a fine mese c'è quella che sostanzialmente non si curano e non fanno più prevenzione. Certo è che sono dati impressionanti, ma soprattutto, come abbiamo detto, non si vedono ancora qui gli interventi che potrebbero farci credere che possiamo essere su una fase di inversione di rotta, quando secondo me per poter parlare di luce in fondo al tunnel o di una crisi che comincia sostanzialmente a terminare, penso che siamo ben lontani da questa fase. Dicevamo le persone senza reddito da lavoro, perché magari un reddito possono anche averlo, può essere una pensione, può essere l'indennità di disoccupazione, può essere l'affitto se hanno questa possibilità, però non è detto che questo milione più di famiglie appunto abbia queste fonti alternative. Assolutamente sono d'accordo con te, tant'è che i dati della Caritas ormai parlano chiaro: a rivolgersi nelle mense dei poveri non sono più gli immigrati o gli extracomunitari, ma sono quelle famiglie che ormai non hanno più quelle risorse per arrivare a fine mese. Quindi ormai le stesse mense che danno assistenza a chi è in difficoltà sono arrivate al collasso proprio per l'incremento che la presenza di queste persone ormai devono affrontare ogni giorno, e queste code lunghissime di persone che ogni giorno si rivolgono a queste strutture di volontariato, per cui certo è un dato che potrà solo peggiorare se non si fa qualcosa, e soprattutto basta renderci conto ormai il numero delle abitazioni che sono in vendita per capire come le persone ormai si stanno svendendo tutto per cercare di sopravvivere, quando mai anche la casa, che era considerata un bene rifugio, oggi sostanzialmente non si riesce più a vendere. Dati dunque molto preoccupanti, sui quali avremo modo di tornare anche per aspetti particolari. La settimana prossima, nonostante il ponte del 1° maggio, noi ci saremo con altri due argomenti da affrontare insieme a te e a tutti i vostri collaboratori. Grazie a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, buon proseguimento. Grazie a te Nico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.